Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Jonathan Harker. 2 ottobre. Sera. La casa appariva disabitata da molto tempo. Le finestre erano incrostate di polvere, le imposte aperte, le strutture annerite dal tempo. E la vernice delle parti in ferro si era quasi tutta scrostata. Risultava evidente che fino a poco tempo fa al balcone era stato appeso un grande cartello, poi strappato via malamente. Infatti se ne vedevano ancora i paletti di sostegno. Ho notato, dietro la ringhiera del balcone, alcune assi sparse e scolorite con i margini rozzamente tagliati. Avrei dato molto per vedere il cartello intatto, perché forse mi avrebbe fornito qualche indizio sul proprietario della casa. Ricordando la mia esperienza di ricerca e di acquisto della casa di Carfax, non potevo fare a meno di pensare che se avessi trovato il precedente padrone, avrei anche scoperto una maniera di penetrare in quell'edificio. Le scuderie erano in funzione perché le case di Piccadilly sono in maggioranza abitate. Ho chiesto a uno o due palafrenieri e ragazzi di scuderia che ho visto lì in giro se sapessero dirmi qualcosa della casa vuota. Uno di essi mi ha detto di avere sentito dire che era stata recentemente venduta, ma non sapeva a chi. Ha aggiunto però che fino a poco tempo prima sulla casa era stato esposto un cartello di vendita che forse Mitchell, figli e Candy, gli agenti immobiliari, avrebbero potuto darmi qualche informazione, perché gli sembrava di ricordare di avere visto il nome di questa ditta sul cartello. Non volendo apparire eccessivamente curioso né fare sapere troppo al mio informatore, l'ho ringraziato nel solito modo e mi sono allontanato. Stava calando il crepuscolo e la notte autunnale era vicina, perciò non ho voluto perdere altro tempo. Ho cercato l'indirizzo della Mitchell, figli e Candy su una guida, al Berkeley, e poco dopo ero negli uffici della ditta in Sackville Street. Il gentiluomo che mi ha ricevuto aveva modi particolarmente cortesi, ma era altrettanto riservato. Dopo avermi detto che la casa di Piccadilly era stata venduta e durante l'intero nostro colloquio ha seguitato a definirla un palazzo, ha pensato che la faccenda fosse conclusa. Quando gli ho chiesto chi l'avesse comperata, ha spalancato gli occhi e dopo una brevissima pausa ha risposto: «È venduta, signore. Scusatemi, ho continuato io con pari gentilezza, ma io ho un particolare motivo per desiderare di conoscere il nome del compratore». È seguita una pausa più lunga in cui egli ha sollevato le sopracciglia ancora di più. «È venduta, signore», ha ripetuto laconico. «Sono certo che non vi dispiacerà di dirmi a chi», ho insistito io. «Sicuro che mi dispiace», ha ribattuto egli. «Gli affari dei nostri clienti sono perfettamente al sicuro nelle mani della Mitchell, figli e Candy». Evidentemente quest'uomo era un pedante, un presuntuoso della più bell'acqua, e discutere con lui non serviva a nulla. Ho creduto dunque che fosse meglio incontrarlo sul suo stesso terreno e gli ho detto: «I vostri clienti, signore, sono fortunati di avere in voi un così vigile custode dei loro affari. Io stesso faccio parte della professione». E gli ho dato il mio biglietto da visita. «In questo caso agisco per conto di Lord Godalming, il quale desidera conoscere alcune cose sulla proprietà che risultava in vendita fino a poco tempo fa». Le mie parole hanno dato subito un aspetto diverso alla faccenda. L'uomo ha detto: «Sarei ben lieto di accontentarvi se potessi, signor Harker, e soprattutto vorrei fare cosa grata a sua signoria. Un tempo ci siamo occupati di un suo piccolo affare, l'affitto di un appartamento per lui, quando era ancora l'onorevole Arthur Homewood. Se volete darmi l'indirizzo di sua signoria, io, dopo aver consultato i miei soci, mi metterò in comunicazione con sua signoria questa sera stessa, mediante la posta della notte. Sarà un piacere deviare dalle nostre norme, se potremo farlo, per fornire a sua signoria le informazioni richieste. Nel desiderio di avere in lui un amico e non certo un nemico, l'ho ringraziato, gli ho dato l'indirizzo del dottor Seward come recapito di Lord Godalming e ho preso congedo. Faceva ormai buio e io ero stanco e affamato. Dopo aver bevuto una tazza di tè alla Aerated Bread Company, ho preso il primo treno per Parfleet. Quando sono sceso, ho trovato gli altri riuniti intorno al camino nello studio. In treno avevo scritto il mio diario fino a questo punto. e ho pensato che leggerlo a loro fosse il mezzo migliore per metterli al corrente di tutto quanto avevo appreso. Quando ho terminato, Van Helsing ha detto: «Questa è stata giornata di grande lavoro per noi, amico Jonathan. Senza dubbio siamo su tracce delle casse mancanti. Se noi troviamo tutte in quella casa, allora nostra opera è quasi finita. Ma se manca qualcuna, dobbiamo cercare finché troviamo esse. Allora faremo il nostro coup definitivo e caceremo il mostro fino a sua morte reale». Diario del dottor Seward, 2 ottobre. Ci siamo radunati di nuovo. Ci sembra di essere finalmente sulla strada giusta ed è possibile che il nostro lavoro di domani sia il principio della fine. Mi domando se la tranquillità di Renfield abbia qualche rapporto con tutta questa storia. I suoi stati d'animo hanno coinciso a tal punto con le imprese del conte che l'imminente distruzione del mostro potrebbe essergli trasmessa in qualche sottile maniera. Se soltanto riuscissimo a farci un'idea di quello che gli è passato per la mente tra il momento della mia discussione con lui ieri e la ripresa della caccia alle mosche, forse otterremo un valido indizio. Da un po' di tempo sembra tranquillo, ma lo è. Quell'urlo selvaggio sembrava venire dalla sua stanza. L'infermiere si è precipitato nella mia camera per avvertirmi che Renfield aveva avuto un incidente. Avendolo sentito gridare, era corso da lui e l'aveva trovato in terra, faccia in giù e tutto coperto di sangue. Bisogna che vada immediatamente. Diario del dottor Seward, 3 ottobre. Voglio registrare con tutta l'esattezza possibile ciò che riesco a ricordare di quanto è accaduto dopo la mia ultima annotazione. Non un solo particolare di cui io abbia memoria va trascurato. Devo procedere con la massima calma. Raggiunta la stanza di Renfield, l'ho trovato a giacere sul pavimento, girato sul fianco sinistro in una luccicante pozza di sangue. Quando mi sono avvicinato a lui per voltarlo, ho capito subito che aveva subito lesioni gravissime. La posizione dei suoi arti non sembrava corrispondere affatto all'armoniosa coerenza tra le parti del corpo che caratterizza una buona condizione di salute, perfino in un individuo in stato di torpore. Il viso, essendo in vista, ho potuto constatare che era orrendamente contuso, come se fosse stato sbattuto sul pavimento. In realtà, il sangue era sgorgato tutto dalle ferite al volto. L'infermiere che era inginocchiato accanto al corpo mi ha detto, mentre lo giravamo: «Temo, signore, che abbia la spina dorsale spezzata. Vedete? Il braccio e la gamba destra, come questa parte del volto, sono paralizzati». Come una cosa simile fosse potuta accadere, lasciava l'infermiere al colmo della perplessità. Pareva totalmente sbalordito mentre diceva, corrugando la fronte: «Quello che non riesco a capire è che siano successe contemporaneamente le due cose. Si sarebbe potuto conciare la faccia così, sbattendosi la testa contro il pavimento. Ho visto una giovane donna farlo al manicomio di Eversfield, prima che si arrivasse in tempo a fermarla, e suppongo che si sarebbe potuto spezzare la schiena cadendo dal letto goffamente, in una crisi. Ma come siano capitate le due cose insieme, questo sul mio onore, non posso proprio immaginarlo. Se aveva la schiena rotta non avrebbe potuto sbattere la testa per terra, ma se si fosse ridotto la faccia in questo stato, prima di cadere dal letto, sul letto ne resterebbero i segni. Io gli ho ordinato: andate dal dottor Van Helsing e pregatelo di venire qui immediatamente. Voglio che venga subito, senza alcun indugio». L'uomo se n'è andato di corsa e dopo pochi minuti è comparso il professore in vestaglia e pantofole. Quando ho visto Renfield giacere in terra, lo ha osservato con intensità per un momento. Poi si è rivolto verso di me Mi deve avere letto il pensiero negli occhi, perché ha subito detto con calma, evidentemente all'intenzione dell'infermiere: «Oh, che triste incidente. Avrà bisogno di molta accurata vigilanza e molta attenzione. Starò con voi, io stesso, ma prima bisogna che mi vesto. Se voi restate, io raggiungo voi in pochi minuti». Il respiro del paziente si era fatto rantolante ed era facile capire che le sue erano lesioni gravissime, terribili. Van Helsing è ritornato con straordinaria celerità e portando con sé una valigetta chirurgica. Evidentemente aveva riflettuto e preso una decisione. Infatti, ancor prima di occuparsi del paziente, mi ha bisbigliato: «Mandate via l'infermiere. Dobbiamo essere soli con lui quando riprende coscienza dopo operazione». Allora io ho detto all'uomo: «Credo che non occorra altro adesso, Simmons. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per il momento. È meglio che riprendiate il vostro giro e il dottor Van Helsing eseguirà l'operazione. Fatemi sapere subito se notate qualcosa di insolito da qualche parte». L'infermiere si è allontanato e noi ci siamo dedicati a uno scrupoloso esame del paziente. Le ferite del viso erano superficiali. La lesione seria era una frattura per affondamento del cranio che interessava tutta l'area motoria. Dopo aver riflettuto un momento, il professore ha detto: «Dobbiamo ridurre pressione e riportare a normali condizioni, se questo è possibile. La rapidità della soffusione rivela la tremenda natura di questa ferita. La soffusione di cervello aumenterà in fretta, così noi dobbiamo trapanare subito. Può essere che troppo tardi». Mentre parlava, qualcuno ha bussato leggermente alla porta. Sono andato ad aprire e ho trovato in corridoio Arthur e Quincy in pigiama e pantofole. Arthur ha detto: «Ho sentito il tuo uomo chiamare il dottor Van Helsing e parlargli dell'incidente, perciò ho svegliato Quincy, o meglio l'ho avvertito, perché non dormiva. I fatti si susseguono troppo velocemente e sono troppo strani perché si possa dormire tranquilli in questo periodo. Ho pensato che forse domani notte non si vedrebbero le cose quali sono realmente state. Dobbiamo stare molto allerta, riesaminando il passato e quello che ci sta davanti più di quanto abbiamo fatto finora. Possiamo entrare?» Ho fatto un cenno di assenso e ho tenuto la porta aperta finché non sono entrati, poi l'ho richiusa. Quando ho visto la posizione e lo stato del paziente e ha notato l'orrenda pozza di sangue sul pavimento, Quincy ha mormorato: «Mio Dio, che cosa gli è successo? Povero diavolo!» Gli ho spiegato in breve le cose, aggiungendo poi che prevedevamo riprendesse la conoscenza dopo l'operazione, ma in ogni caso per poco tempo. Quincy è andato a sedersi sull'orlo del letto e Godalming gli si è messo accanto e tutti osservavamo con pazienza. «Aspetteremo», ha detto Van Helsing, «solo il tempo bastante per stabilire il punto migliore di trapanazione, così che possiamo rimuovere poi grumo di sangue più presto e perfettamente. Perché è chiaro che emorragia sta aumentando». I minuti di attesa trascorrevano con spaventosa lentezza. Io avevo il cuore orribilmente stretto e dall'espressione di Van Helsing capivo che provava un certo timore, una certa apprensione per quello che sarebbe potuto accadere. Io paventavo le parole che Renfield avrebbe potuto dire. Decisamente pensare mi faceva paura, ma sentivo in me il presagio di quanto sarebbe successo, come certi uomini, così ho letto, hanno presentito l'ora della morte. Il respiro del poveretto si faceva sempre più irregolare. In ogni istante sembrava in procinto di aprire gli occhi e parlare. Seguiva invece un rantolo più prolungato e Renfield ricadeva in uno stato di incoscienza più stabile. Per avvezzo che fossi alla malattia, alla morte, l'ansia seguitava a crescere in me. Potevo quasi sentire il battito del mio stesso cuore e il sangue mi pulsava contro le tempie con tonfi di martello. Infine, il silenzio è diventato tormentoso. Ho guardato i miei compagni uno dopo l'altro e ho capito, dal colorito acceso dei loro volti, dalle fronti sudate, che soffrivano le mie stesse torture. Eravamo tutti sottoposti a una forte tensione nervosa, come se sopra di noi gravasse la minaccia di una terribile campana che avrebbe risonato fragorosamente quando meno ce lo aspettavamo. Infine è venuto il momento in cui si è visto chiaramente che le condizioni del ferito stavano peggiorando in fretta. Poteva morire da un istante all'altro. Ho guardato il professore e i nostri occhi si sono incrociati. Il suo viso aveva un'espressione risoluta mentre diceva: Non c'è tempo da perdere, le sue parole possono valere molte vite. Ho pensato questo mentre stavo qui. Può essere che non è un gioco. Noi operiamo proprio sopra l'orecchio. Senza aggiungere altro, ha effettuato l'intervento. Per pochi istanti la respirazione è continuata affannosa. È seguito un respiro così lungo che sembrava dovergli spaccare il torace. D'un tratto Renfield ha spalancato gli occhi e ci ha fissati con uno sguardo ansioso e disperato, ma dopo poco è passata un'espressione più dolce, come di lieta sorpresa, e dalle sue labbra è uscito un sospiro di sollievo. Con un movimento convulso ha detto: «Starò calmo, dottore. Fatemi togliere la camicia di forza. Ho fatto un sogno terribile e mi ha lasciato in uno stato di debolezza tale che non riesco a muovermi. Che cosa ha la mia faccia? La sento gonfia e mi brucia orribilmente». Ha tentato di girare la testa, ma questo sforzo è bastato a offuscargli di nuovo gli occhi. Allora io, con delicatezza, l'ho aiutato a riprendere la posizione precedente. Van Helsing gli ha detto con voce tranquilla e seria: «Raccontateci il vostro sogno, signor Renfield». Nell'udire queste parole, il viso di Renfield si è illuminato sotto le ferite ed egli ha detto: «Ma questo è il dottor Van Helsing? Come siete stato gentile a venire? Datemi un po' d'acqua. Ho le labbra secche e cercherò di raccontarvelo. Ho sognato...» Qui si è interrotto e sembrava in procinto di svenire. Io mi sono rivolto sottovoce a Quincy. «Il brandy è nel mio studio, presto!» Quincy è partito di volata per ritornare con un bicchiere, il brandy e una caraffa di acqua. Gli abbiamo bagnato le labbra inaridite e il paziente si è subito ripreso. Sembrava tuttavia che il suo povero cervello ferito avesse continuato a lavorare intanto, perché quando è tornato alla piena conoscenza, guardandomi con acutezza e un'espressione di straziante smarrimento, ha detto: «Non devo ingannare me stesso, non è stato un sogno, ma una atroce realtà». I suoi occhi hanno fatto il giro della stanza e quando ha visto le due figure sedute sull'orlo del letto, in paziente attesa, ha proseguito: «Sì, già non ne fossi certo, la loro presenza me lo confermerebbe». Per un istante ha chiuso gli occhi, non a causa di un dolore o di un senso di sonnolenza, ma volontariamente, come se volesse concentrarsi e mettere in azione tutte le sue facoltà. E quando li ha riaperti si è messo a parlare in fretta e con un'energia che prima gli era mancata. «Presto, dottore, presto. Sto per morire. Sento di non avere che pochi minuti. E poi sarà la morte o peggio. Bagnatemi ancora le labbra con il brandy. C'è qualcosa che devo dire prima di andarmene. O almeno prima che muoia il mio povero cervello spappolato. Grazie. È stato quella notte. Dopo che siete andato via, quando vi avevo supplicato di lasciarmi uscire, allora non potevo parlare perché sentivo di avere la lingua legata, ma ad esclusione di questo blocco. Ero sano di mente, come lo sono adesso. Dopo che mi avete lasciato, sono rimasto a lungo, in una condizione di disperata angoscia. Un tempo che mi è sembrato eterno. Poi, d'un tratto, in me è scesa la pace. Sembrava che il mio cervello si fosse placato e mi sono reso conto dov'ero. Ho sentito i cani abbaiare dietro la nostra casa, ma non dove era lui». Mentre Renfield parlava, Van Helsing non ha mai dato segno di stupore, ma ha teso la mano verso la mia e me l'ha stretta con forza. Tuttavia non si è tradito e con un lieve cenno di assenso ha detto a bassa voce: «Andate avanti». Renfield ha proseguito: «Egli è venuto alla finestra. tra la nebbia come l'avevo visto fare spesso prima, ma questa volta era una forma concreta, non un fantasma, e i suoi occhi erano feroci come quelli di un uomo affamato. Rideva con la sua bocca scarlatta e i suoi acuminati denti bianchi hanno brillato al lume di luna quando si è voltato a guardare verso il folto degli alberi dove i cani abbaiavano. Da principio esitavo a invitarlo a entrare, pur sapendo che lui lo voleva come l'aveva sempre voluto. Allora lui ha cominciato a promettermi cose, non a parole, ma producendole. Una domanda del professore l'ha interrotto. In che modo? Facendole apparire, proprio come le mosche che mi mandava quando splendeva il sole, grandi, grosse, le ali incrostate di acciaio e zaffiri, e di notte grandi farfalle con cranio e ossa incrociate sul dorso. Van Helsing gli ha fatto un cenno di assenso e a me ha bisbigliato quasi senza rendersene conto la Charontia atropos della famiglia degli sfingidi, quella che è comunemente detta farfalla a testa di morto. Intanto il paziente continuava a parlare, poi si è messo a sussurrare. Ratti, ratti, ratti, centinaia, migliaia, milioni di ratti, e ognuno di essi una vita, e cani, per mangiarli anche gatti, tutte vite, tutti sangue rosso, con anni di vita in esso, non soltanto mosche ronzanti. Io ho riso in faccia perché volevo vedere quello che poteva fare. Allora i cani hanno ululato in lontananza dietro gli scuri della finestra. Mi sono alzato e ho guardato fuori. Ha sollevato le mani e sembrava che chiamasse, senza pronunciare una parola. Una massa scura si è sparpagliata sul prato e pareva avanzare come una fiamma. Poi lui ha spostato la nebbia da destra a sinistra, così io ho potuto vedere che i ratti erano migliaia e avevano scintillanti occhi rossi, come i suoi ma più piccoli. Quando lui ha alzato una mano, si sono fermati tutti e io ho avuto l'impressione che mi dicesse: tutte queste vite io ti darò e tante, tante, tante altre più grandi per un tempo infinito se tu ti inginocchierai per adorarmi. Allora una nube rossa, color del sangue, mi ha offuscato la vista e prima di rendermi conto di quello che stavo facendo mi sono trovato ad aprire il telaio della finestra dicendogli: entrate, signore e padrone. I ratti erano scomparsi, ma egli si è insinuato nella stanza attraverso l'intelaiatura, sebbene fosse appena scostata, proprio come la luna è penetrata spesso dalla più minuscola delle fessure, per starmi davanti in tutta la sua grandezza e il suo splendore. La voce di Renfield si era affievolita. Io gli ho umettato di nuovo le labbra con il brandy ed egli ha ripreso a parlare. Ma era come se la sua memoria avesse continuato a procedere durante l'intervallo, perché il suo racconto si era spinto più innanzi. Stavo per richiamarlo al punto, ma Van Helsing mi ha bisbigliato: lasciate andare avanti, non interrompetelo. Lui non può andare indietro e forse non può neanche più proseguire se perde filo di suo pensiero. E Renfield ha continuato: Per tutto il giorno ho atteso sue notizie, ma lui non mi ha mandato niente. Non lo picco poco. E quando si è levata la luna, ero veramente in collera con lui. E quando è penetrato attraverso la finestra, sebbene fosse chiusa e senza neanche bussare, mi sono infuriato contro di lui. Ma lui sogghignava beffardo e il suo viso bianco si delineava tra la nebbia, i rossi occhi scintillanti, si comportava come fosse il padrone del luogo. Io neanche esistessi. Non aveva neppure lo stesso odore quando mi è passato davanti. Ho avuto la sensazione che la signora Harker, non so come, fosse entrata nella stanza. I due uomini seduti sul letto si sono alzati per farsi più vicini, ma si sono tenuti dietro di lui in maniera di non essere visti, ma poterlo udire meglio. Non hanno detto nulla, ma il professore ha avuto un sussulto, un brivido, mentre il suo volto diventava più rigido e cupo. Senza accorgersi di nulla, Renfield ha proseguito. Quando è venuto a trovarmi questo pomeriggio, la signora Harker non era più la stessa. Era come il tè, quando la teiera è stata troppo annacquata. Abbiamo sobbalzato tutti, ma nessuno ha pronunziato una parola. Intanto Renfield seguitava a raccontare. Non mi ero reso conto della sua presenza finché essa non ha parlato e non sembrava più la stessa. Non mi interessa la gente pallida, mi piacciono le persone con tanto sangue nelle vene. E sembrava che il suo si fosse tutto esaurito. Lì per lì non ci ho pensato, ma quando è andata via mi sono messo a riflettere. E l'idea che lui le stesse sottraendo la vita mi ha fatto impazzire di rabbia. Potevo sentire gli altri tremare come tremavo io, eppure non ci siamo mossi, non abbiamo parlato. Così quando questa notte lui si è presentato, io ero pronto a riceverlo. Ho visto la nebbia infiltrarsi nella stanza e l'ho saldamente afferrata. Avevo sentito dire che i pazzi sono dotati di una forza straordinaria, sapendo di essere pazzo, almeno in certi momenti. Ho deciso di usare i miei poteri. Ma lo ha capito anche lui, perché è dovuto uscire dalla nebbia per lottare con me. Io lo stringevo con forza e credevo di essere sul punto di vincere, perché non volevo che lui le sottraesse la vita. Finché ho incontrato i suoi occhi, mi sono sentito bruciare dentro e la mia forza si è dissolta come acqua. Mi è scivolato tra le mani quando ho cercato di riafferrarlo. Mi ha sollevato e mi ha sbattuto per terra. Davanti a me c'era una nube rossa e udivo un fragore di tuono e la nebbia pareva scivolare via di sotto la porta. La sua voce era diventata più flebile e il respiro più affannoso. Van Helsing si è alzato impulsivamente. «Ora noi sappiamo il peggio», ha detto. «Lui è qui e noi conosciamo il suo intento. Può essere che non è troppo tardi, dunque armiamoci lo stesso come eravamo l'altra notte, ma senza perdere tempo, non c'è un istante da sprecare!»